Nel bel mezzo de Coulon, a se sento un gran spuel, gent che la vusa, che la rit, e la giuga col curtel, tri pirati e en le de guardia, propi fe dell'usteria. La clientela abitual, la pensade scappa via. Domandim men al per come, domandim neanche al perché, ma vede in gir chi fac, ne avi oltre staufle. Ma, specie un attim, fam vede, che la ven vestite scur, se ta gio col so bicer, e le men aven de lur. Le fa se nel suo mantel e le gros come una ca. Un pirata l'ha vedu e pensa bene pruca. Set un prevet, set un fra o una vacca travestida. Me scumetti che stasera la tua vita l'è finita. Prema il rite il toc de merda e poi il tira fe un curtel. I oltri riden an calur e varden tu c'è il carusel. E il bastard che gira in gir, e il rit, e il vusa, e il falgradas, per gli oltri della banda che ghignat che desguaras. Ma l'Umbria setà da giù, le pemea in scestremida, e per il por pirata ciuc, leggiamo questa una ferida. Vusa, trema, fa qualcos che s'undrea fat la pel. Podet men arresta l'enche se t'ha giun sul toscagnel. Me se chiami patauncia e occupa più se gent me che la peste o il colera o quel che te vere te. L'om senza nom se me fa d'asi mentre il pubblico se sposta. Befa mo della sua tazza e gli dà la sua risposta. Desmedde fan bala la vista bred macaco senza denge che se veri a te suteri con ton para de scurange. A to forsi da fastidi buasciada col vestì veden men che te seti stupid, ignorant e ciuc tradì. Svolza mo per una volta venimcia che visen e che dise i to compagni de ta capizza lumen. Se vorevi giugata, se rimea in questa fogna con ton roche de morte fan piede piace con la rogna. Assunché per roba seria, che te podet mea capì. Fan parlare col capitan e te svia, brutre in bambì. Figureme se il balurta sentì quell'urazion. E il sbarata fa la buca, il diventa men leon. Mette cupi, mette desfi, mette fode scià e de là. Ma nel gir de tri segund, alle le lun che tirà. E chi oltri l'han capida che le mea ventan mol. Quell'armadi è il gasutera e mea dumà conti parol. Venga, venga tu insieme, finisuf come lui. E i crap, i guleran via, ma stavolta a due. Basta che a quei ven, che resta l'anca mo la crapa, per pudena di caslaf, che goscia una certa mappa. E quest'ultima parola, alle piena de magia, visto che, de lì a un secondo, il capitan el rua via.